Il punto di Stefano Folli. Ci sono notizie che non si vorrebbero mai commentare, tale è lo scoramento che provocano. Quella del ritorno in India dei due Marò è una di queste. Pare ci siano volute ore per convincerli a partire e purtroppo sembra di vedere la scena. Dopo che poche settimane fa era stato garantito loro dalle nostre autorità nel modo più solenne e definitivo possibile che ormai era finita, che sarebbero rimasti in Italia. E invece sono tornati laggiù, in cambio di una serie di garanzie, la prima delle quali è che non saranno condannati a morte. Insomma, un pasticcio totale e avvilente, una pagina nera che sarà difficile dimenticare. Con due domande. La prima: a quale altra nazione con una tradizione politica e diplomatica sarebbe accaduta una disavventura del genere? Alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna? La risposta è nessuna. La seconda: noi paghiamo i nostri errori con questa mortificazione, ma gli indiani che hanno preso in ostaggio il nostro ambasciatore in spregio a tutte le norme internazionali, quali sanzioni riceveranno? E anche in questo caso la risposta è nessuna.